24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Quanti ne ha da tirare fuori uno dietro l'altro? Quanti ne ha? Allora, per favore, togliete tutti quelli che trovate sul mappa, non solo quelli che hanno in mano. È grasso, non si sente bene, ma è Grasso che dice: allora, ma quanti cartelli avete lì? Ieri alla Camera, al Senato, dov'è che erano? Al Senato, Grasso era al Senato, ovviamente. Una gran bagarre, un gran casino, non chiedetemi molti dettagli, si votava questa cosa sul voto di scambio alla mafia. Tanto oggi abbiamo Mario Di Nolfi, lui segue tutte queste cose, ci spiegherà il motivo. Marione, ciao, vi stiamo per fottere Antonio Conte, questa è l'unica buona notizia con cui possiamo iniziare 24 mattino, lo sai? Lo sai? Vorresti Antonio Conte al Milan? Beh, è la persona più odiosa che esista nel mondo del calcio, ma è il più, come dire, è l'allenatore, secondo me, che in questo momento... Non è una buona premessa per avere l'allenatore, per favore, sii un po' più carino, dici che Antonio, per favore... Ma che c'è? I tifosi del Milan ti aspettiamo, così. Ma no! Se fai così, forse viene, dai. Ma no, dai, vabbè, ma Antonietto... Vincente la Juve, grandiosamente vincente, per favore, vieni. Antonietto nostro. Dai, così forse funziona. Antonietto nostro, dai, ti regaliamo anche qualche capello in più. Vieni qui da Fabio Capello. No, vedi che non funziona. Da Fabio Capello a Er Capello. Dai, vieni qui, Antonietto, a vincere, a fare nuove vittorie, a continuare a vincere, a trionfare ogni anno. Tu che sei un allenatore vincente. Che bella vittoria sarebbe, quanto mi piacerebbe. Sì. Venire da voi e perdere, così sarebbe perfetto. Sì, pure venire da noi e perdere con la Juve anche l'anno prossimo. Esatto. Ti vengo a prendere poi a Roma su te e il tram 8. Te, e poi dopo le vedrai le facce da tram sull'8. Va bene, questa è 24 mattino. Saluto Miriam Lucchetti e Peter Bescapè in regia. Apriamo il Parlamento, che c'è anche il nostro Maurizio Tortorella che scalpita, il nostro vice direttore di Panorama. Buongiorno. Oh, buongiorno, vedi? Sul caffè della Minetti, subito con che tempismo, eh? Parlavate di calcio, sai che io di calcio. Cioè, perché invece sei più ferrato sulle donne? Parlavi della Minetti, devi dire. Sì, esatto, no, visto che, il calcio. Sono ferrato su pochissime cose. Allora, però è la peggiore. È la peggiore, vabbè, però sei milanista e quindi questo sì. Tu lo vorresti Antonio Conte al Milan? Sai che non so neanche chi sia Antonio Conte. Ma dai, ma insomma, vabbè, ma dai, Antonio, l'allenatore della Juve, dai. Sì, ma per me è una fede così, diagnostica, sì. La mia. Capito, Marione, dove vogliamo andare con tifosi così? Niente. Ma non si può, perché ovviamente non sanno bisogna calarsi con il popolo che noi sostanzialmente rispettiamo, vero Milanda, come sì. Sappiamo sì. Che cos'è, insomma, però tu disprezzi il popolo, no? Tu disprezzi il popolo. Allora, sentite anche questa, Grasso con cos'è successo? Ieri hanno espulso, a proposito di calcio, no, a proposito di politica, non lo so, vabbè, hanno espulso due grillini al Senato, ma adesso mi spiegate bene che è successo, Grasso. Ma... Senatore Sant'Angelo, la censura vale anche per lei, allora infliggo la censura anche a lei. Se lei non si tace, io la faccio accompagnare fuori. Prego i questori di dare esecuzione all'ordine di espulsione del senatore Sant'Angelo. Espulso. Se io le dico di tacere, lei deve tacere. Oh! Fuori. Fuori. Oh, Adinolfi, ma è impazzito pure grasso, è impazzito pure. Ma è mai successo? No, io vorrei sapere, ma è mai successo come nel calcio che uno espulso si rifiuti e inizia a fare rissa al quello no. Quando dice espulso. I calciatori sono più seri, insomma. Allora va detto anche che Grasso deve rendersi conto che non fa più il magistrato, eh? Cioè non è che adesso chiama i carabinieri e li fa arrestare, insomma. Vabbè, però succede. Il tono era sbagliatissimo. Se le dico di tacere, lei deve tacere. Bravo, una cosa, questo gli ha detto senza senso. Tu fai con calma, puoi prendere il provvedimento di espulsione, ma non sei più un questurino, non sei più uno che prende il resto della gente. Per cui, con molta tranquillità, al presidente Grasso e al presidente Boldrini va detto che i parlamentari del Movimento 5 Stelle vanno, per carità, dei tranquilli quando c'è bisogno, ma con il rispetto che si deve a dei rappresentanti del popolo. Del popolo. Non era uno scippatore che è stato preso alla magistratura di Palermo. Che dici, Maurizio? Tu concordi? Ieri sia Grasso sia la Boldrini hanno usato entrambi, dopo un'espulsione, il grido fuori. Non mi pare rispettoso, obiettivamente. Lì bisogna tenere l'ordine, questi sono indisciplinati, una scolaresca indisciplinata. Sì, i toni e le forme vanno conservate, a volte la forma e il contenuto, come diceva un filosofo di qualche tempo fa, sono cose importanti, non si può trattare un parlamentare che pure esageri nei toni in maniera... Sentiamola la Boldrini, sentiamo, perché anche lei ha espulso l'onorevole Prataviera, sentiamo Boldrini. Onorevole Prataviera, Bragantini. Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine per la seconda volta. E due. La espello dall'aula. Eccola. Onorevole Prataviera, no. La espello dall'aula. Fuori Maurizio, fuori. Però posso dire, nell'atteggiamento della Boldrini c'era un po' più di serietà da presidente, diciamo così. Lo richiami all'ordine, lo espelli e lo fai un po' concitato, quando col fiatone. Io dico tu devi tacere è una cosa che non può dire una volta di parlamento. Queste cose vanno spiegate. Questi sono dei parvenu, i due presidenti della Camera, come i parlamentari del 5 Stelle, solo che da presidenti della Camera e del Senato sono seconda e terza carica dello Stato, dovrebbero essere un po' più attenti. Maurizio, dai il tuo momento contro l'ex magistrato Grasso, forza, scatenati. Che cosa devo dire? Non lo so. Hai già detto tutto, sono perfettamente d'accordo, ma poi quando ci sono intemperanti in aula, comunque il regolamento prevede sia la Camera che il Senato che il Presidente abbia il diritto e forse anche il dovere di allontanare il parlamentare che esagera, e quindi ci sta. Vabbè, quando c'è una rissa, una ressa, quando c'è confusione alla Camera, c'è sempre lui. Buonanno, ecco. Io sono stato in un freddo anno. Onorevole Buonanno, la richiamo all'ordine. Sono stato. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Scusi, ma anche. Sì. Onorevole, Presidente. Basta. Presidente, basta. Mi scusi. Presidente, mi scusi. Onorevole Prataviera. Prataviera. Poi lì devo dire, caro Mario, parlava Alfano dei migranti, c'era Buonanno della Lega e la Boldrini sappiamo che ha avuto una vita spesa all'ONU per i migranti. Quindi figurati, l'argomento era Buonanno. Lo voleva strozzare. Se lo voleva strozzare il leghista. Se riuscisse anche a Boldrini a staccare un attimo dall'elemento personale, ricordando che la si fa il preside lì. Vabbè. Ma voi ve lo immaginate Pietro Ingrao, lo immaginano ma anche Luciano Violante, ma persino Pier Ferdinando Casini, voglio dire, o Fausto Bertinotti, illustri ex presidenti di Camera e Senato, avere ma anche la Pivetti. Anche la Pivetti dice totale. Arridatecela Pivetti. Vabbè, io vorrei un parere da persone che insomma voi avete seguito per anni anche tutte le manifestazioni, un periodo dell'Italia anche un po' più calda. Allora, c'è ancora questa polemica, io ne parlerò alle 8:15 sulla questione della polizia e quello che è successo a Roma sabato. Tra l'altro anche ieri c'è stato uno sgombero con qualche manganellata. Oggi il prefetto di Roma, Pecoraro, dice basta, difendo gli agenti di polizia. Quello che ha camminato sulla ragazza, beh, non è un cretino, sconfessando dunque quello che ha detto il capo della polizia. Al limite è una persona che, come dice a Repubblica Carlo Bonini, che sembra avere un atteggiamento apparentemente inspiegabile, però, e dice il prefetto Pecoraro, basta, sono persone che pigliano 1200 euro al mese, non vorrei fare la retorica, ma insomma sono lì, sempre sotto i petardi, sotto le... il tema c'è. Maurizio, tu da che parte stai? Lo so che è brutale metterla così, ma dimmi... Se la poni così brutalmente, io sono da parte delle forze dell'ordine, subito. Senza se e senza ma. Poi ti dico che se un agente di polizia, un carabiniere o quant'altro compie un errore, ovviamente deve intervenire l'autorità giudiziaria e valutare il suo comportamento, o fare, deve esserci comunque un'indagine interna, tutto quello che vuoi. Ma tra voglio dire, non c'è bisogno di scomodare Pasolini con le parole che scrisse anni fa, negli anni 70, sul fatto che i giovinastri che andavano per in piazza a picchiare i poliziotti erano i borghesi che andavano in realtà a picchiare i proletari o i figli dei proletari. All'epoca poi le divisioni di quel genere erano ideologiche ancora più di adesso. Sì. Però diciamo, tu di linea di massima stai più dalla parte del prefetto. Assolutamente, anche perché le manifestazioni organizzate per degenerare automaticamente in quel tipo di risse e di violenze che abbiamo visto e che abbiamo rivisto tante volte, che poi si concludono ogni volta con il ferito e con l'inesistenza della punizione. No, ma più che altro poi succede sempre, come ho detto, ci sono i professionisti dello sfascio che poi sanno come scappare. Ne fermano quattro. Sì, e poi li lasciano. Vengono poi prosciolti, non c'è mai la certezza della pena. È ovvio che in una situazione del genere chi va di mezzo sono i poveretti. No, ma è chiaro che vengono presi. Io, Mario, tu che ne pensi? Perché il prefetto dice non è un cretino quello che è stato definito cretino dal capo della polizia, insomma. Ma è uno io strappo. qualche se e qualche ma ce lo metterei, insomma, cioè, francamente. Il parallelo con Pasolini, che è inevitabile, è quasi rituale per certi versi, con Valle Giulia. A Valle Giulia, in quel giorno alla facoltà di architettura, tirarono i sanpietrini addosso ai poliziotti in maniera piuttosto violenta, in una condizione molto particolare. Qui abbiamo uno che sale deliberatamente con l'affibbio sul corpo di una ragazza a terra, cioè è un po' diverso, no? Cioè è una cosa che tu avete la faccia di papà perché mi stai tirando i sanpietrini su quelli che guadagnano due spicci per difendere l'ordine, benissimo. Questa volta la scena, e vi assicuro che se puntate le telecamere su una vicenda di scontri con la polizia, c'è sempre qualche episodio, basta accendere la telecamera per episodi di questo genere. E non è forse cretino non è l'espressione giusta, perché quello è veramente un reato, una cosa orrenda. No, qua la condizione di usare la porta e sali con l'anfibio deliberatamente sulla ragazza a terra, stai su. No, ma è chiaro. Ma non è questione di difendere. 200 euro al mese che vuoi, tutte le frustrazioni che vuoi, tutta la difficoltà che vuoi. Ma questo a me un po' preoccupa. Sì, però a te non preoccupa un po' il fatto che sia legata alla situazione anche della crisi? Lo so, si dice 1200. Guarda, anche il secolo XIX oggi fa l'apertura. Chiaramente, il secolo XIX, sappiamo tutti, la Diaz, il G8, eccetera. Il titolo è Il ritorno della carica, cioè poliziotti pagati sempre peggio. Piazze caldissime, cioè si sente una voglia de menà, questa è la verità. E questo preoccupa ed è un problema, però è un problema. Non prendiamole dalla dal pelo, diciamo, queste storie. Prendiamole contro pelo, perché se diciamo, no vabbè, poverini, questi guadagnano poco, quindi hanno diritto di salire sul corpo inerme della ragazza. No, è una cosa senza testa. Ma non diciamo questo. Però se al giornalista lì hanno detto no, io non dico che non è un cretino. Sì, il prefetto fa questa difesa, dico difendo gli agenti. Certo difendo gli agenti, ma quello lì non lo puoi difendere. Quello lì proprio non lo puoi difendere. Vabbè, lui dice, accende la telecamera, ne prendi alla parola cretino, dice, io userei un'altra parola, direi che il comportamento di quell'artificiere è apparentemente inspiegabile. Questo effettivamente si è messa così. Io ripeto, cretino è poco, secondo me. È poco. Cretino è poco. Comunque, la sensazione che ci sia, come dire, quel clima dove la scintilla sia facile, c'è. E la sensazione è questa, non è una sensazione bella. 24 mattino. Voilà, Silvio Berlusconi ai servizi sociali. Dovrà occuparsi dei vecchietti di Cesano Boscone. Ma penso che dovrà occuparsene anche psicologicamente. Magari racconterà le sue barzellette. Sono convinto che li farà morire tutti le risate. Uè Milan, vorrei sapere quella figa americana di Renzi che aumento gli ha dato a Moretti, che è diventato amministratore delegato di Finmeccanica quotata in borsa. Berlusconi compra tutto, compra i senatori, compra i voti e chissà quante altre cose. Non si sarà per caso comprato anche le toghe rosse? Qualche migliaia di italiani fanno volontariamente, per amore per il prossimo, solidarietà e senso civico, per Berlusconi è considerato una condanna. Ma ti sembra giustizia questa? Il poliziotto che ha calpestato la ragazza scambiandola per uno zaino. Ma qua la tesi difensiva è ancora peggio dell'accusa. C'è poco da fare, questi sono gli eredi di Bolzaneto. Con attenzione e grande maestria, preoccupato per l'ecologia, è Alessandro Milan che batosta, chi non comprende è che la carta costa, e ogni mattina punge quel giornale che pubblica un'inchiesta demenziale. Ciao Neda, Felice Pautazzo. Vabbè, ma ciao Felice. Mario, non dire niente con Felice. Non t'azzardare. Ma che è Felice Pautazzo? È stato anche tanti anni in Rai. Ma smettila! Ma informati! Smettila! Finiscila! Juventino che non sei altro, mamma mia, ragazzi, oh tu. Ma non ne capisco che anche io di mattina perdo lucidità, quindi insomma, è tutto ma tu me lo mandi sto libro, Voglio la mamma, sennò io la trasmetto. Ricordiamocelo, Voglio la mamma. Sì, ma io non la faccio la trasmissione. Ma mandamelo, fammi mandare una copia, dal tuo editore. Perché se no. Felice Pautazzo tiro canticchia poi. Esatto, esatto. Facciamo così, alla Felice Pautazzo. Allora, una cosa l'ho capita: gli 80 euro in busta paga. Ancora Renzi ce l'ha con i gufi, troveremo le coperture, ma ho capito che in parte gli 80 euro. Ditemi se ho capito bene, Maurizio, lo pagheranno coloro che guadagnano di più, perché tolgono le detrazioni sui mutui, le spese sanitarie, cioè un po' tolgono la spesa, però un po' mi sa che pagano i ricchi per i poveri, mettiamola brutalmente, è così? È ancora una volta una cosa che non sta in cielo e in terra. Comunque ho letto che 1 miliardo viene via dalla spesa sanitaria, sanità. E quindi c'è una partita di giro, perché se tu da una parte togli, dall'altra sì, oddio, lo togliessero dalle truffe della sanità, ecco. Ma magari. L'idea è soltanto di usare i soldi del canone, anzi dell'evasione del canone, per fortuna è durata soltanto mezzo pomeriggio, anche quella è una follia. Sì, però io anche lì dico, ma perché non mettiamo il canone nella bolletta? Cioè, allora, vogliamo certificare che può essere evasa questa tassa, e allora lasciamo tutto così. E se invece se è una tassa e va pagata, cioè perché io la devo pagare e c'è uno che non la deve pagare? Guarda, io non lo so, io la pago da quando ho il televisore, tutti gli anni la pago, per cui ho la coscienza a posto, ma l'idea che nelle possibilità di trovare altrove i soldi, improvvisamente il governo si svegli e dica, sapete cosa facciamo? Dato che ci sono 300 milioni di evasione nel canone RAI, facciamo che la RAI recupera quei soldi, mettiamo la tassa, che ne so, nella TASI o come diavolo si chiama la nuova tassa sui rifiuti. E noi prendiamo i soldi in tasca. E noi ne prendiamo la metà per i rifiuti. Ho capito, ma se è una tassa o la togli, o se no io sono io, ma anche te sei il più pirla che la paghiamo. Forse assolutamente. Anche... Assolutamente. Non ho capito. Non so, comunque la netta impressione è che... a ogni difficoltà Renzi sposti l'asticella o faccia una striscia un pochino più in là e aumenti la confusione in maniera tale da non permettere a nessuno di capire cosa diavolo effettivamente. Ecco, Mario, dai, difendi tu. Difendo Matteo, perché difendi Matteo. 80 euro busta paga Verode, c'è niente da fare. No, ma beh, io sono Matteo. Verode perché no? Ma tutti no. Quelli sopra i 1500 euro gli erode. No, ma no, ma non Verode, io sono contento, però bisogna fare le cose. Ho fatto una cosa giusta, e basta, ragazzi. Se prende i ricchi dai poveri, bravissimo. Che devi dire? La cosa migliore. La cosa migliore è se tagliasse un po' di spesa pubblica e li prendesse da lì. Ma guarda che ieri è andato a dire Padoan che non facciamo più il pareggio di bilancio, avete capito cosa vuol dire? Che se ne fotte di una regola che avrebbe costretto la finanza pubblica, quindi molto semplicemente sforerà. E spero che lo faccia. Per una cosa che era già prevista, perché i 13 miliardi da restituire alla pubblica amministrazione alle imprese era già previsto dalle manovre di Monti e di Letta, che avevano previsto 40 miliardi, se non si riesce a capire. No, vabbè, dai, Maurizio Cerode, dai, Cerode, sta recuperando un punto al giorno sui sondaggi. Verode, ma no, ma sono contento per lui, ma chi se ne frega? Ma a me, guarda, proprio non mi interessa, per me può vincere anche Maria Di Nolfi. Ma il presidente del Consiglio europee. Si candida, adesso ormai non si può più candidare. Ma hai provato a candidarti, Marione? Dai. Alle europee bisogna spendere un sacco di soldi, ma che spendere un sacco di soldi? Che la campagna elettorale per le europee è allucinante, le preferenze su macro regioni, una cosa disumana. Sì, questo è vero. Cioè, dovevi andare, che ne so, nel Veneto, magari un milione di euro adesso e le metti a spese, adesso vedrai i manifesti, guarda, cominciate a guardarvi i manifesti e pensate dove mettere i manifesti se sei candidato a Roma, anche ad Ascoli e a Empoli, e te li fai pagare dal partito, ma chi se ne frega, e fai una partita a poker andata bene, quello sì, e li metti là ma che ti frega, vabbè, insomma non ce l'ha fatta. No, le candidature invece, vabbè, c'è Scaiola che è fuori, è furibondo, curo i miei asparagi, dice sono le uniche cose che mi danno soddisfazione qui nell'orto, fa il modello cincinnato. C'è Cecchi Paone, ragazzi, c'è Cecchi Paone al sud. C'è Cecchi Paone, ieri era la zanzara, e vabbè, che c'è Cecchi Paone, e poi ci sono alcuni dentro, alcuni fuori. Va bene, io ho qua la prima di copertina di Panorama. Maurizio, avete scelto una storia incredibile oggi, come mai avete messo? È una storia bellissima. È una storia, diciamo, viva la vita, no? L'avete titolata così? È proprio così, è perché è un inno alla vita, la vita di Danilo Ferrari, che è un ragazzo di 29 anni a Catania, bloccato dalla nascita e non muove, non si muove, non parla, non muove nemmeno le mani. Pensate, non emette suoni, non utilizza le mani, non parla, eppure riesce a scrivere con gli occhi, e ha scritto il suo primo libro. Sì, ha gente molto in gamma intorno a lui, chiaro, potete capire. Però sì, fa teatro, fa il giornalista, perché si scrive di sport, e ha appena scritto un libro in cui appunto racconta come non si è mai arreso la sua disabilità. Una storia che avete scelto di mettere in copertina, davvero, davvero incredibile, davvero, davvero meritevole. Che dire, tu Marione invece di che ti occupi alle 8? Anche io mi occupo di questioni di fine vita, ho Antonio Socci, insomma il tema della vita è il tema decisivo, dagli embrioni scambiati, veramente complimenti a Tortorella e a Panorama, perché questa storia è meravigliosa. E secondo me sono i temi essenziali, resto tutte chiacchiere. Questi sono i temi essenziali: vivere, nascere, morire, amare, questi sono i temi veri, insomma. oggi mi occupo di questo con Antonio Socci, come sapete avuto una figlia, insomma, in è chiaro, di difficoltà, che è un libro bellissimo, parliamo un po' di queste questo. Storie anche nei giorni in cui gli embrioni si scambiano, finiscono in pancia una all'altra. altro che il voto mafioso, vedete, chi se ne frega, chi se ne frega, sono tutte cose importanti, ma queste sono più importanti, sono cose bravo che passano, dottorella e bravo panorama, sono cose che passano, quello del voto mafioso. Va bene, io vi saluto, grazie Mario Di Olfi e Maurizio Tortorella, buona Pasqua, settimana prossima io sarò in vacanza, penserò a Conte, dai, vieni Conte al Milan, Antoniuccio nostro, vieni. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7 e 17 minuti, cari ascoltatori, forza che magari tra un paio di giorni vi riposate per Pasqua a due giorni, Io mi fermo una settimana. Non so voi, io mi fermo una settimana. Tu, Peter Pescapè, cosa fai? Due giorni? Due ore? Due minuti? No, non lo so, quante vacanze ti hanno dato? Due ore? No, due giorni anche per il nostro alpino. Allora, oggi parleremo tra un'ora delle polemiche che continuano anche oggi sui giornali, tra poco lo leggeremo in rassegna stampa, sulle vicende che coinvolgono la polizia, le manifestazioni di piazza. Anche ieri c'è stato uno sgombero, un tentativo di sgombero finito con qualche scontro a Roma, ma soprattutto sabato ci sono state le polemiche. Avremo ospite il rappresentante del SAP, il sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli. Avremo ospite un giornalista di Repubblica che ha scritto il libro Il partito della polizia. Avremo ospite anche Francesco Caruso, ve lo ricordate, ex deputato di Rifondazione Comunista, no? Attivista no global, molto spesso anche in manifestazioni, sarà nostro ospite per parlare di quello che sta succedendo nelle manifestazioni di piazza. Ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 17 aprile, i titoli, Il Sole 24 Ore, come molti quotidiani, apre in vista del Consiglio dei Ministri di domani, in cui si dovrà decidere dove da parte del governo si troveranno i soldi per gli 80 euro. Coperture IRPEF, spunta il taglio delle detrazioni. Così il titolo del Sole: risparmi su Camere, Colle e Consulta, cioè la Corte Costituzionale, F35 ridotti. Repubblica, IRPEF, ecco il bonus, tagli agli stipendi di toghe e docenti, dunque magistrati e professori. Mini redditi, bonus di 40 euro, così apre il Corriere della Sera, pareggio di bilancio rinviato, il caso della lettera all'Unione Europea e la corsa del governo per trovare le coperture degli sconti IRPEF. La Stampa, bonus, cambiano le regole, niente detrazioni IRPEF, taglio agli oneri sociali per aiutare i redditi più bassi. Per Libero invece la sorpresa di Pasqua, tassa sugli stipendi. Il Giornale invece, tagli e tasse, stato confusionale, questo è il titolo. Il Messaggero si concentra invece sulla situazione a Roma, bilancio caos, allarme Roma, scontro col sindaco Marino, via l'assessore Morgante, non mi fanno tagliare spesa e tasse. Il Fatto Quotidiano invece, Roma trema per le microspie nel ristorante dei potenti. Nel privé di Assunta Madre, questo ristorante, ci sono le cimici che captano moltissime conversazioni, a partire da quelle sulla fuga del braccio destro di Berlusconi dell'Utri. Ecco qua la questione della polizia, il ritorno della carica, questo è il titolo del Secolo XIX, poliziotti pagati sempre peggio, piazze caldissime, così finisce la tregua dopo il G8 di Genova. Il Manifesto invece mette la foto degli scontri, il titolo è Botte da Urbe. Questo è il titolo di prima pagina, voglio partire proprio da qui. Ieri Filippo Bubbico, ai microfoni Simone Spezia, qui a Radio 24, ha detto che si sta studiando il il discorso, no, che va avanti peraltro da anni, di mettere le targhette identificative dei poliziotti che sono in servizio durante le manifestazioni di piazza, si deve avviare una discussione pacata e non emotiva, ha dichiarato, che quei sono quei modi, quei giri di parole per dire che così io temo che poi non accadrà mai nulla, ma l'idea è questa. Fiorenza Sarzanini scrive mezza pagina sul Corriere della Sera proprio al titolo Bubbico e l'idea contestata dei numeri sul casco degli agenti, un modo per identificarli, e vedremo, questo certamente è uno dei temi che affronteremo. Certo, il Secolo XIX fa proprio questa inchiesta dal titolo La polizia si dà la carica, a dire, beh, ovviamente il Secolo XIX è anche molto attento a tutto quello che avviene nel mondo della polizia, visto che il G8 di Genova, che è stato un po' uno spartiacque anche nella gestione dell'ordine pubblico, è avvenuto proprio lì a Genova. Poliziotti sempre peggio pagati, piazze caldissime, scrive il Secolo. Così finisce la tregua dopo il G8. Matteo Indice, in prima pagina del Secolo, scrive: sbaglio, ho notato un certo maggiore attivismo nella gestione dell'ordine pubblico. Certo, non si può accusare un governo di sinistra di essere dittatoriale. Ottimo lavoro, ragazzi, specie nel fermo dei cosiddetti pacifici, dove i giornalai sono sempre alla ricerca della violenza facile. Ecco, questo firmato Marco 14628 nel caleidoscopio di umori sul forum poliziotti.it, un forum non istituzionale degli agenti impegnati sul campo in piazza, è l'emblema da cui parte il Secolo per raccontare un clima che sembra cambiato, e si mette questa questione: stipendi in picchiata, piazze sempre più cariche di tensione, ecco perché i manganelli stanno sfuggendo di mano. Il Manifesto ieri si concentra su quello che è successo ieri a Roma, il titolo è Botte da Urbe, e a pagina 2 racconta Manganelli, specialità della casa, e ovviamente si riferisce agli scontri e alle polemiche. Lo sgombero ieri di un palazzo alla Montagnola, occupato alla periferia della capitale, si trasforma in un'altra manifestazione di forza del Viminale. Tra i vari feriti anche i leader dei senza casa. Per esempio viene intervistato il portavoce dei blocchi precari metropolitani Paolo Di Vetta, appena uscito dall'ospedale per cure mediche proprio per le manganellate. Non ci sta il prefetto di Roma. Il prefetto di Roma Pecoraro oggi fa una lunga intervista in prima pagina di Repubblica a difendere gli agenti di polizia. Ma quali violenze? Quel poliziotto non è un cretino, e si riferisce a quel poliziotto definito cretino dallo stesso capo della polizia, quello pescato mentre nel video cammina o comunque calpesta per qualche istante una ragazza a terra. Il prefetto di Roma: ora basta, sono i poliziotti le vere vittime, di Carlo Bonini in prima di Repubblica. Declina quale premessa, a scanso di equivoci e a scanso di diplomazie, questa frase: ho un'età e un'esperienza che mi consentono di dire quello che penso. La gestione della piazza, che mi ha visto assieme al questore responsabile dell'ordine pubblico, è stata un successo. Ma come un successo? Chiede Carlo Bonini. Sì, un successo. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Non ci sono stati danneggiamenti significativi, abbiamo difeso i luoghi istituzionali, è stato consentito lo svolgimento della manifestazione, è stata contenuta e respinta la provocazione dei violenti, evitando che la situazione degenerasse. Se qualcuno avesse avuto l'onestà intellettuale di raccontarlo, avrebbe notato che di fronte al lancio di bombe carta e poliziotti feriti si sono evitate le cosiddette cariche profonde in punti che avrebbero messo a repentaglio l'incolumità di migliaia di manifestanti. Parte da qui il prefetto Pecoraro, insomma, a difendere la gestione della piazza dell'ordine pubblico e delle forze dell'ordine il sabato scorso, e poi viene al punto decisivo, quello della definizione di quell'agente di polizia che ha camminato sulla ragazza. È un fatto, chiede Bonini, che per quelle immagini il capo della polizia ha chiesto scusa, ha definito il comportamento dell'artificiere degno di un cretino. Risponde il prefetto Pecoraro: io userei un'altra parola, io direi che il comportamento di quell'artificiere è apparentemente inspiegabile. Ma mi scusi, suona pilatesco e un po' corporativo questo, non trova, al contrario. Io credo che se ci interroghiamo sul perché quell'artificiere era dove non doveva stare, ha fatto quel che le immagini mostrano e che non doveva fare, magari ci avviciniamo a una possibile soluzione. E perché lo ha fatto? Me lo dica lei. Forse, risponde il prefetto, per dare una mano ai suoi colleghi, per la frenesia e la frustrazione di chi improvvisamente si sente bersaglio alla mercé di chi i manifestanti è chiamato a tutelare. Non voglio essere retorico, ma provi a immaginare per 1200 euro al mese lei è per strada a difendere il diritto di manifestare di qualcuno che al contrario la battezza come bersaglio simbolico della sua personale guerra. Succede in piazza, succede allo stadio. Io che dei poliziotti abbiano detto a chi manifestava siete gente di merda non ci credo. Quanto a quello che è successo ieri alla Montagnola, io e il questore eravamo qui in prefettura uno accanto all'altro quando siamo stati messi in contatto con chi operava di fronte a quello stabile. È stato cercato in ogni modo il dialogo, senza contare che da 15 giorni che gli occupanti sapevano che esisteva un provvedimento della magistratura di sgombero a cui la polizia doveva dare esecuzione. Ora, cosa bisogna fare se qualcuno decide di impedire che quell'ordine venga eseguito? E se per impedirlo accade che vengano tirati oggetti di ogni tipo dall'alto, addirittura lanciati segnali stradali, siamo o no in uno stato di diritto? Ecco, questo, la difesa, il prefetto Pecoraro dice un successo a Roma. E soprattutto non è un cretino quell'artificiere che ha camminato sulla ragazza, semmai ha avuto un comportamento apparentemente inspiegabile. Il tema è aperto, Libero anche in maniera dura, difendendo le forze dell'ordine, dice coi teppisti il giudice ci va morbido. Tutti a casa gli arrestati, concessi domiciliari ai quattro blue block, ecco sono definiti così, non più black block perché erano blue block, arrestati a Roma nonostante le immagini confermino i reati durante il corteo. Comunque la pensiate, ne discuteremo alle 8:15. Prima una follia burocratica di quelle che mi fanno rispolverare il mantra tenete le mani strette sul volante se state guidando, cari ascoltatori, ben strette, tazzine del caffè bollente da appoggiare, perché succede in Italia, succede a Foligno, ma potrebbe succedere ovunque. Il pesce, c'è una norma europea, ce lo chiede l'Europa. Il pesce va nominato in latino, altrimenti scatta la multa. E a Foligno succede, ci sono i commercianti del mercato del pesce infuriati, come racconta Nicola Michelli a pagina 16 di Libero, sotto la dicitura burocrazia folle. Il pesce in vendita col cartellino e la dicitura corretta in latino. Altrimenti fioccano le multe, e le multe stanno arrivando dal Corpo Forestale dello Stato in alcune pescherie della zona. L'orata è la Sparus aurata e va scritto così, se no multa. Il tonno è il Tunnus tinnus. La spigola è il Dicentrarcus labrax. Mi dia un Dicentrarcus labrax. 2 chili, grazie. Se no multa. L'Europa. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Ecco. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta. Grande. Coltelli da prosciutto. Come mi manca, come manca nelle nostre città. Io da anni che non sento più arrivare l'arrotino. Voi lo sentite nelle vostre città? Passa ancora l'arrotino con questo straordinario messaggio registrato? Dovremmo conoscere anche la voce di è arrivato l'arrotino. Va bene, allora, tema centrale oggi sui giornali è concentrarsi su quello che accadrà domani del Consiglio dei Ministri. È il Consiglio dei Ministri decisivo per cercare di capire come si troveranno i soldi per dare i famosi 80 euro in busta paga a maggio. Ieri Matteo Renzi ha twittato questo, no? Su Twitter. Dicevano che era una televendita, poi che non c'erano le coperture, poi le coperture sì, ma non quelle. Amici gufi, ma aspettare venerdì no? ce l'ha coi gufi, bisognerà fare un ente protezione gufi. No, scherzo, insomma ce l'ha con chi gufa contro, con chi continua a dire non ce la fa, non ce la fa, no? L'attacco ai gufi contro il governo. Oggi sul Sole 24 Ore, su tutti gli altri giornali ci sono i dettagli. Sul Sole 24 Ore però Marco Rogari fa delle ampie anticipazioni di quello che dovrebbero essere le coperture per trovare i soldi. Tagli su Colle, camere e consulta. Allora, Marco Rogari, pagina 4, vado a leggere. Un tetto dal 1 maggio alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, dall'lineare 239.000 euro lordi all'anno del capo dello Stato. Da estendere anche agli organi costituzionali, magistrati, autority, Banca d'Italia, seppure rispettando la loro autonomia. E poi secco taglio del 5% agli importi di contratti d'acquisto in essere di beni e servizi di tutta la pubblica amministrazione, enti pubblici, società interamente partecipate compresi. Ulteriore stretta attraverso un nuovo sistema di controlli dell'autority dei contratti pubblici sulle convenzioni. Contributo al Ministero della Difesa, minimo di tagli di 200 milioni nel 2014 e 900 milioni nel 2015. Sicura revisione del programma F-35, riduzione di 51,3 milioni nel 2014 e di 135 milioni nel 2015 ai trasferimenti a Quirinale, Camere e Corte Costituzionale. Intervento significativo sulle municipalizzate. Queste alcune delle misure cosiddette anticasta, eh? Anche a livello locale, regionale, queste sono le tessere principali del mosaico dei tagli alla spesa pubblica previsti da Renzi. Poi però c'è un'altra cosa che spunta, e anche se Renzi dice amici gufi aspettate domani a vedere le coperture, ma le anticipazioni ci sono oggi sui giornali, quello che spunta è l'ipotesi allo studio prevede il taglio delle spese detraibili, per esempio polizze vita, spese sanitarie, interessi sui mutui, per chi ha redditi superiori a 55.000 euro. Ecco, questo fa scattare un riflesso, come dire, non è che per dare 80 euro in busta paga a chi, a tutte le persone alle quali è stato promesso, si va appunto a pagare, a tassare di più di fatto, perché se si tolgono, se si riducono le spese detraibili, di fatto vuol dire mettere una tassa, se volete, o ridurre le detrazioni, insomma si danno meno soldi a chi guadagna più di 55.000 euro. Traduciamola così, si toglie un po' a chi guadagna di più per coprire in parte gli 80 euro a chi guadagna di meno. Per qualcuno è una cosa giusta, per altri invece, oggi il Sole 24 Ore scrive in un piccolo corsivo in prima pagina, dire, ma insomma, ci si augura invece che il Premier smentisca oggi stesso questa ipotesi, perché è come dire che una parte di quegli 80 euro sarà pagata non dai tagli alla spesa, ma da più tasse sui redditi medio-alti. Staremo a vedere. Renzi appunto dice, amici gufi, aspettate domani. Aspetteremo domani. Tra l'altro l'Unità fa sapere che Renzi stesso è pronto a tagliarsi lo stipendio. Pagina 4, Vladimiro Frulletti, tagli, Renzi pronto a ridursi lo stipendio, attualmente è di 6.000 euro al mese, non essendo parlamentare, è un po' di più ma non troppo di quanto prendeva da sindaco di Firenze, era 4.500 euro al mese, e secondo l'Unità dunque è pronto, in nome della revisione, diciamo, del tetto da mettere a tutti i dipendenti pubblici, in qualche modo considerare anche se stesso un dipendente dello Stato, e quindi da 6.000 euro scendere e ridurre un pochino lo stipendio. Il Foglio poi, con Claudio Cerasa, ha un'ottima anticipazione proprio sul tema municipalizzate. Domani dovrebbe calare una sorta di mannaio, comunque un'attenzione del Consiglio dei Ministri sulle tante municipalizzate che spesso affossano i conti dei comuni. E allora scrive, ecco il piano renziano contro le 500 sanguisughe comunali. Claudio Cerasa in prima del Foglio. Domani pomeriggio il governo presenterà il decreto legislativo con cui il Presidente del Consiglio proverà a mantenere la promessa fatta nel giorno dell'insediamento, incardinare entro la fine di aprile la riforma della pubblica amministrazione. E allora ci sarà un capitolo legato a un tema che avrà impatto in quelle città in cui le municipalizzate si sono trasformate in un ingestibile carrozzone che grava per 22 miliardi di euro l'anno sulle casse degli enti locali. L'idea potrebbe essere questa, anticipata dal Foglio, potrebbe usare utilizziamo il condizionale, la tagliola che scatterebbe automaticamente qualora il bilancio di una società partecipata del comune sia in perdita per 2 anni di fila. 2 anni di fila di bilancio in rosso, la tagliola coincide con la parola privatizzazione e più in particolare con l'obbligo di vendita delle quote qualora si trattasse di una partecipazione di minoranza e con l'obbligo di mettere in liquidazione la società qualora il comune dovesse avere un controllo superiore al 50%. Il mirino di Renzi, ecco da qui il titolo, il piano contro le 500 sanguisughe comunali, perché sono 500 le società identificate che si trovano in rosso da 2 anni consecutivi. Di queste 500 società municipalizzate, potrebbe Renzi dire, dopo 2 anni di rosso, o si privatizzano o si vendono alcune quote. La tagliola che scatterebbe. Stiamo a vedere domani. Anche il Messaggero si concentra sugli stipendi pubblici. La maxi stangata, il primo tetto a 60.000 euro, arrivano nel tetto entro cui bisogna mettere le retribuzioni di tutti i dipendenti pubblici. Pare anche una sforbiciata degli stipendi dei magistrati, dei docenti. Ah, ecco la polemica contro i professori, forse lì andava a parare Renzi, e quindi non solo i dirigenti ma anche dipendenti pubblici come quelli tipo professori, docenti universitari, magistrati. Smentiremo i gufi, questa è la promessa di Renzi, e staremo ovviamente a vedere. Tra l'altro ieri c'è stato questo giallo anche per la questione della lettera partita dal Ministero dell'Economia diretta verso l'Europa sulla questione del pareggio di bilancio, no? Il pareggio di bilancio, è anche un giallo su questa cosa, perché spunta il caso della lettera all'Unione Europea sulla possibilità dell'Italia di sforare il pareggio di bilancio, rinviare il pareggio di bilancio. Ne scrive anche Fabio Martini a pagina 5 della Stampa. Bilancio, voto a rischio, il governo blinda tutti i suoi senatori, non sa vivere senza di lui, scrive la Stampa, lo tiene sempre vicino a sé, gli affida i messaggi più urgenti. Anche ieri Matteo Renzi non ha resistito a digitare questo tweet sugli amici gufi. Una giornata tutta spesa ieri a chiudere il dossier IRPEF, durante la quale il Presidente del Consiglio ha deciso di non replicare in nessun modo l'escalation di critiche sulle nomine degli enti pubblici. Ieri però, insomma, c'è stato anche questo giallo sulla questione della lettera spedita all'Europa per la questione del pareggio di bilancio. Il pareggio slitta, prima la crescita, questo titola anche il quotidiano nazionale, lo schiaffo di Padoan all'Europa. Staremo a vedere come questa vicenda dell'Europa e del pareggio di bilancio va a finire. Poi ci sono le liste di tanti. Ieri si sono chiuse le liste per coloro che si dovevano presentare alle elezioni europee, liste chiuse. Ci sono anche persone trombate, un trombato illustre è Claudio Scajola, tra poco vedremo la sua intervista. Ma a proposito di trombati, saluto Mauro Meazza. Oh, buongiorno. Sono le 24 ore, non ti ho trovato, ti ho cercato in tutte le liste di qui, le liste di qua, le liste di su, le liste di giù. No, loro non mi hanno telefonato. Uno tu strapuntino, mi hai telefonato. Un posticino, datelo a Mauro Meazza. No, niente, vabbè. No, niente, neanche questo giro, mi toccherà continuare a risponderti al telefono la mattina. Però ti avviso, tu continui, come dire, a riferirmi a proposito di cose, diciamo, più o meno gradevoli. Questa mattina appunto i trombati. Sì. Io ti vorrei dire, guarda, che il reato di diffamazione è abbastanza ampio. Sì. Se tu leggi norme e tributi, anche se anonimo, ma qui non lo è. Qui non esatto, lo è. Esatto. Vedo che sei un lettore attento anche delle pagine di norme e tributi, e me ne compiaccio. Va naturalmente. Bene. Ovviamente questo lo inserisci nel corposo dossier che il tuo avvocato sta preparando contro di te, certo, che è già in mano al mio avvocato, come ti ho detto. Però ti voglio dire, leggi bene questo articolo di Giovanni Negri sulla diffamazione ampia via Facebook, anche se è una diffamazione anonima, Io potrei dire che ci sono dei conduttori radio che non sanno stare al loro posto, sì, eccetera, sì, eccetera, e mi insultano. Ecco, questo, e poi mi ritrovo accusato di diffamazione. È una delle cose che trovi su Sole 24 Ore. Naturalmente, dopo il doveroso spazio per le anticipazioni sul taglio all'IRPEF, quello per cui si dovrebbero trovare anche una quarantina di euro per i cosiddetti incapienti. Non ti interrogo sul significato della parola incapienti. No. È stato spiegato. È stato spiegato, cioè. È stato spiegato. Chi voleva leggere ha letto. Chi doveva leggere ha letto. Ti ho detto, allora, hai diritto allo sconto, ma siccome sei, come dire, non hai imposte da pagare, sei troppo, guadagni troppo poco per pagare tasse e non ti possiamo neanche dare gli sconti sulle tasse. Questo è un po' il senso dell'incapiente. Non vorrei che poi venisse utilizzato anche come insulto, che so, per una lite stradale, cose del genere. Il BTP Italia, sai che è andato bene, abbiamo chiuso con una raccolta oltre 10 miliardi. Lo so. Abbiamo con uno slancio patriottico. Certo. E Maximilian Cellino, cioè non li ho presi io, ecco, questo vorrei precisare. Maximilian Cellino ti spiega, tu mi hai detto che eri interessato al prodotto, io non ti voglio fare domande personali, però no, ma l'hai già fatta ieri, ti ho detto che ho comprato qualcosa anch'io. Hai comprato? Bravissimo. Euro di sì, più, un pochino di più, ma insomma, ho dato fondo a tutto. Molto bene. Senti, a proposito di euro, sì? Stamattina rischiavo di, come dire, non risponderti al telefono perché ero distratto da un bell'articolo di Moria Longo che spiega via dall'euro, restare nell'euro, tutte le conseguenze. Invito così alla lettura, ragazzi. Così, sai, ognuno ha le sue preferenze. Perversione, l'ho distratto al mattino per l'articolo di Moria Longo. Grande abbraccio a Moria Longo, ovviamente. Mi piace la mattina leggere di questo. E poi, naturalmente, mi informo sempre su come andiamo per i beni ai soci. Attenzione, la proroga è connessa alla presentazione di Unico. Ma adesso non voglio tediarvi, non è il momento. Ma è il leggete a norme e tributi, è un altro momento, giusto? Sì. È un altro momento. Va bene, e allora traffico. Alessandro Milan, il giornalista più titolato del mondo. E questo è vero, questo non me lo potrà negare neppure un gobbo come Mario Dinolfi, neppure lui, la squadra più titolata al mondo. Va bene, allora è il giorno delle liste ieri, la compilazione delle liste per le europee ieri scadeva e quindi c'è il solito elenco di chi è dentro, chi è fuori, soprattutto la compilazione è stata complicata in Forza Italia, trombato Claudio Scajola che fa due interviste al Corriere della Sera, Monica Guerzoni e al Secolo XIX, intervistato da Marco Menduni, intanto dice a entrambi la stessa cosa: mi occupo dei miei asparagi nell'orto, è l'unica soddisfazione che mi prendo in questi momenti. E vabbè, è un Claudio Scajola, ora mi occupo della famiglia, la cosa più importante, non si capisce se lascia Forza Italia o non lascia Forza Italia, al Secolo dice no, non lascio il partito, ma ora dico solo auguri. Auguri e addio, chiede Marco Menduni del Secolo. Auguri. Per l'intanto prendo mia moglie e andiamo a farci una vacanza di 4 giorni per Pasqua. Ah, beh, fondamentale. E poi c'è la vicenda Berlusconi. Berlusconi vuole tornare in TV, così scrive il giornale. In gioco una partita decisiva, l'articolo di Adalberto Signore. Ma attenzione, perché il Fatto Quotidiano mette in luce un problemuccio che potrebbe avere Berlusconi andando in TV. Siccome è affidato ai servizi sociali, siccome una delle regole da rispettare è che non può frequentare e contattare pregiudicati, potrebbe esserci un problema per il Fatto. Se Berlusconi va ai talk show nello stesso programma, per esempio c'è, che ne so, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che ha una condanna definitiva, oppure Giorgio Mulè, direttore di Panorama, li cita il Fatto Quotidiano, o Maurizio Belpietro, che è stato direttore anche di Panorama e del giornale, e ora direttore di Libero. Lo stesso Vespa ha una condanna per diffamazione definitiva in Cassazione, scrive il Fatto Quotidiano, e quindi in teoria, secondo questa regola, Bruno Vespa non potrebbe incontrare e quindi intervistare Berlusconi. Bruno Vespa, contattato, dice: non ci voglio neanche pensare, mi pare prematuro fare questi calcoli, non so che dire, ignoro regole e dettagli, vedremo più avanti. Insomma, Berlusconi potrà andare in TV intervistato da Bruno Vespa, che ha una condanna in Cassazione per diffamazione, e secondo la stringente regola potrebbe voler dire ha incontrato un pregiudicato e dunque deve andare agli arresti domiciliari. Ecco, questa, vabbè, è follia italiana, cioè vi sembra che se Bruno Vespa intervisti Berlusconi vuol dire che Berlusconi sta incontrando un pregiudicato? Cioè siamo alla follia pura, ma potrebbe insomma succedere anche questo, con una stringente applicazione delle norme e delle regole. Vi segnalo la prima pagina della Stampa, o meglio pagina 2 e 3, dedicata a un'intervista ad Angelino Alfano, che parla come ministro dell'interno per la situazione migranti e sbarchi in Italia. È boom di sbarchi, racconta la Stampa, pagina 2, scontro in Parlamento, sono state salvate 19.000 persone, un costo di 9 milioni di euro al mese per l'Italia, che chiede aiuto a Bruxelles. Ovviamente c'è la polemica con la Lega e Laura Anello, vi segnalo questo articolo a pagina 2 della Stampa, va ad Augusta in provincia di Siracusa, dove tra l'altro c'è un commissario al posto del sindaco, e racconta la storia di queste persone abbandonati come randagi, non capiamo neppure dove siamo. Un viaggio tra i migranti che vagano per la Sicilia, scappiamo anche da qui. C'è il racconto di varie persone che dicono: noi non vogliamo neanche stare in Italia, vorremmo andare in posti europei diversi, ma vengono trattenuti, smistati tra i comuni, spesso sono un peso sulle casse comunali, per l'appunto, insomma, la classica situazione di gestione confusionaria, per dire poco. Ci sono anche vari articoli su Marcello Dell'Utri, in particolare giornalisti del Corriere di Repubblica, Giuseppe Guastella del Corriere e Francesco Viviano di Repubblica, lo hanno incrociato per qualche minuto nell'ospedale di Beirut, dove Dell'Utri è stato trasferito per ragioni umanitarie. Sia il Corriere che Repubblica raccontano di un Dell'Utri visibilmente affaticato, la barba lunga, ammanettato, e che incrocia i giornalisti. Ma lei da Palermo che viene a fare a Beirut? Dice al cronista di Repubblica, e Viviano risponde: beh, sono qui purtroppo per lei. Gli diciamo vorremmo parlarle, lui: no, non voglio dire niente. Poi i giornalisti sono stati anche spostati, identificati dalla polizia, perché ovviamente in questo momento non è possibile per Dell'Utri contattare giornalisti. E comunque il racconto di questo brevissimo faccia a faccia su Corriere Repubblica tra i due inviati e Marcello Dell'Utri. Certo, i piani dell'estradizione si allungano, anche perché, pensate, bisogna tradurre tutti i documenti in francese e arabo, e quindi anche questo complica la situazione. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Sarà un profluvio da qui a quando Berlusconi prenderà possesso dei servizi sociali a Cesano Boscone. Ah, il giorno, oggi mezza pagina a raccontare cosa farà Silvio Berlusconi per gli ospiti della Sacra Famiglia. Il titolo a pagina 5 è questo: e se arrivasse fin qui in elicottero? Sul campo di calcio che c'è a fianco si può atterrare, o potrebbe entrare con tutta la scorta da una porta di sicurezza sul retro, o potrebbe arrivare in elicottero, e come faremo? Ma chi se ne frega, basta, risparmiateci tutti questi articoli, gli assedi, gli inviati da Cesano Boscone, vi prego. Cesano Boscone non ha nulla di interessante da andare a vedere, non è una meta turistica, lasciate Cesano Boscone in pace, per favore. La carta costa, se arrivasse in elicottero Berlusconi, adesso ci penso, a Pasqua arriverà in elicottero, in moto, in scooter, a piedi o in macchina. 24 mattino. Quando sono le 8:17, ben ritrovati ancora da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, oggi il Secolo XIX, giornale di Genova, soprattutto diffuso a Genova, la città del G8, ricordate, la città che, di quella che fu la manifestazione che decisamente è stata uno spartiacque nella storia della gestione dell'ordine pubblico in Italia, fa un'inchiesta in prima pagina dal titolo «Il ritorno della carica». Si racconta sul Secolo che la tensione sociale è aumentata, che i poliziotti in servizio sono pagati sempre meno, sempre peggio, che la crisi morde, le piazze sono caldissime, insomma per tutti questi motivi la tregua di piazza è finita, scrive il Secolo. Spuntano sempre più facilmente i manganelli quando si tratta di manifestazioni. Anche ieri alla periferia di Roma la polizia è intervenuta per far eseguire un provvedimento di sgombero firmato dalla magistratura e la situazione in pochi minuti è degenerata in scontri con chi si voleva opporre a questo sgombero. Sabato scorso però la manifestazione che ha fatto più scalpore, ha suscitato più polemiche, strascichi anche oggi sui giornali. Il prefetto di Roma Pecoraro oggi fa una lunga intervista a Repubblica, intervistato da Carlo Bonini, dice: è stato un successo la gestione dell'ordine pubblico sabato. Sì, sfido chiunque a dimostrare il contrario, non ci sono stati danneggiamenti significativi, è stato consentito lo svolgimento della manifestazione, abbiamo protetto i luoghi istituzionali. E poi, di fronte alle accuse nei confronti di quell'artificiere definito un cretino dallo stesso capo della polizia, quello che ha calpestato la ragazza a terra, risponde Pecoraro: io non lo definirei un cretino, ma direi che il suo comportamento è apparentemente inspiegabile. Insomma, il prefetto Pecoraro dice: sto dalla parte degli agenti, quali violenze, non voglio essere retorico, ma per 1200 euro al mese immaginatevi gli agenti in strada a difendere il diritto di manifestare di qualcuno che al contrario li battezza come bersaglio simbolico della sua personale guerra. La polemica dunque c'è, è inevitabile, noi ne vogliamo discutere con Gianni Tonelli, che è presidente del SAP, è uno dei sindacati, è il sindacato autonomo dei polizia. Buongiorno Tonelli. Buongiorno a voi. Saluto anche Marco Preve. Marco Preve è un giornalista di Repubblica, ha scritto un libro per Chiare Lettere che si intitola Il partito della polizia. Ciao Marco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, il partito della polizia, che è un libro denuncia anche molto forte, un excursus di tutti questi anni della Repubblica e di quello che, come dice il titolo, sarebbe un partito di anche di forti coperture da parte della politica per insabbiare laddove succedono casi in cui esponenti del corpo della polizia sono coinvolti. C'è anche un lungo capitolo dedicato proprio alla vicenda della G8 di Genova. Allora però andiamo con ordine. Tonelli, lei sottoscrive le parole del prefetto Pecoraro, cioè è stato un successo di ordine pubblico quello che è successo sabato? Ma guardi, io il mio compito non sono autorità provinciale di pubblica sicurezza, quindi non entro neanche, voglio dire, nel dare un giudizio se è stato successo o meno. Certamente devo verificare che quanto affermato dal prefetto non ho riscontri in senso negativo da dover fare, in effetti è questo. Non si può certamente dire che i manifestanti abbiano avuto la possibilità creare dei danni eccessivi ai punti istituzionali e obiettivamente tutta questa vicenda penso che sia anche figlia di una grandissima montatura. Poi è chiaro che vi possono essere dei pareri difformi, la dimostrazione oggettiva è semplicemente una di tutta la negatività sviluppata l'altro giorno con un quantitativo X, 1 milione, ecco, si è concentrati unicamente su quello che è stato un gesto sicuramente sbagliato da parte di un mio collega. Sì, cioè quello della ragazza calpestata. Però ha sentito che anche il prefetto Pecoraro dice: non lo avrei mai definito un cretino. No, anche per lei non è un cretino. No, io dico non è confacente, l'ho dichiarato tranquillamente sui giornali questa mattina, che sul Corriere, questa dichiarazione non è confacente a ruolo, alto ruolo istituzionale rivestito dal capo della polizia e neppure è un modo di dover indicare giudicare quelli che sono i suoi uomini. Lei come, lei come lo definisce? Che certi ambienti vogliono essere compiaciuti, sì, però credo che bisogna avere un attimo più Ma è chiaro, lei Tonelli come definirebbe quella vicenda e quell'artificiere che tra l'altro adesso è indagato per violenza, aggravata anche dal fatto che è un agente di polizia? Ma questo voglio dire, in Italia con riferimento a noi, voglio dire, queste cose si sprecano, quindi non mi stupisco né di questo né di altro. No, ma lei come definisce quel gesto? No, sicuramente come... posso dire che definito un gesto sicuramente è stato un errore da parte del dipendente, ma del collega va contestualizzata la situazione, a parte non ho visto particolare cruenza il resto, un gesto sicuramente sbagliato, ne risponderà oltremodo, ma è figlio di quello che è un urto fortissimo di uno stress in un contesto di guerriglia urbana dove l'ipotesi di perdere la vita non era un'astratta valutazione oppure un artificio mentale, ma era un qualcosa di concreto, perché per chi ha avuto modo di verificare, di vedere, di osservare, di guardare i filmati, si rende ben conto di quello che succedeva. Allora, le chiedo questo, Tonelli, lei è d'accordo? Dover trasformare adesso due mascalzoni come quelli che abbiamo visto, in un eroe, in Robin Hood che difendeva la sua Lady Marian, cioè non è vero. I due mascalzoni i di polizia devono essere chiamati a rispondere del loro responsabilità. No, certo, ma mi faccia capire, i due mascalzoni sarebbero quel ragazzo o quella ragazza per terra? Ma ci sono le fotografie che dimostrano, non lo so. Queste domande. Io vedo anche questa mattina, obiettivamente, se lei guarda sui giornali, nella panoramica, ho guardato la rassegna stampa, anche gli altri giorni, siano ben identificati. No, per esempio Libero mostra oggi una foto nella quale c'è una delle persone che ieri è stata poi rilasciata, cioè agli arresti domiciliari, era stata fermata, era stato mandato agli arresti domiciliari dal giudice, e Libero dice eccolo qua in mezzo ai blue block, adesso non vengono definiti, non black block. Però mi scusi, le chiedo questo, Tonelli, lei è d'accordo sulla lettura che c'è per esempio sul secolo XIX di oggi, cioè a dire c'è un clima esasperato, sarà la tensione sociale, sarà la crisi economica, sarà... In parte sì, in parte no. E c'è quindi questa tendenza a sfociare in violenza più facilmente rispetto a qualche anno fa. Chi i livelli istituzionali non siano in grado di sviluppare la loro attività di mediazione per i problemi e i conflitti sociali è indiscutibile. Che si scarichino quindi, essendo i livelli istituzionali incapaci, sulla piazza e scaricati quindi su di noi... Questo è altrettanto vero, però non tutti questi tensioni sono create dal disagio della crisi, perché qualche anno fa la crisi non c'era ed era uguale. No, ma il problema è che le piazze, mi sia consentito dire, e rubare questa battuta a qualcuno, ma dalla Val di Susa alle piazze, agli stadi, sono diventate ormai dei parchi divertimenti per mascalzoni, perché la gran parte delle persone che erano lì a manifestare non avevano nulla a che vedere con la rivendicazione abitativa che in quel momento si faceva. Ma erano lì per... Sono persone che sono state denunciate anche 60, 70, 80 volte per reati concernenti l'ordine pubblico e non saranno mai chiamati a rispondere alle loro responsabilità. No, ma è chiara la sua posizione. Vorrei sentire Marco Preve, come detto, giornalista di Repubblica. Marco, magari poi vi approfondiamo il libro, ma vogliamo partire da qui. E tu, da osservatore, vivi a Genova, tra l'altro, da osservatore della realtà e delle manifestazioni, credi davvero che sia una situazione di tensione? A me un po' preoccupa quando si parla sempre del dire pensate voi a 1200 euro al mese. Certamente è uno stipendio magari non confacente alla funzione, all'importanza, però non è che uno può dire siccome prendo 1200 euro al mese c'è maggiore tensione e sono più propenso quindi a sfogarla, perché è un discorso pericoloso associare lo stipendio alla direi assolutamente, perché sennò allora legittimiamo anche il chirurgo che opera in condizioni spiacevoli a sbagliare, a operare la gamba destra piuttosto che quella sinistra. No, direi che qua forse ci sono anche due considerazioni da fare. La prima, tu prima chiedevi come definiresti il poliziotto che passa, definisce in un modo e il prefetto in un altro. Io lo definisco soprattutto uno che non sa fare bene il suo mestiere, perché quel gesto che purtroppo vediamo anche altre volte, anche se evidentemente non è effettuato e compiuto solo da una piccola parte, è prima di tutto la dimostrazione di un'assenza di freddezza in un momento peraltro in cui lo scontro è finito, perché non mi scandalizza la violenza nel momento dello scontro, ci mancherebbe altro, lì sì che allora deve è assolutamente umano che ciò avvenga anche con una carica di rabbia, addirittura di vendetta, non, voglio dire, non mi scandalizza. scandalizzo, mi scandalizzo. O di adrenalina, banalmente, c'è l'adrenalina che in quel momento. Certo, ma però in un momento a freddo, quando non c'è più il pericolo, lì non rischiava la vita nessuno, allora lì sì che è un'incapacità professionale. E ricordo, aggiungo solo un elemento: dal 2009, a seguito delle vicende di Genova, Napoli, Aldrovandi, la polizia ha istituito una scuola per la formazione dell'ordine pubblico. Come funzioni? Io non lo so, dico solo che il primo dirigente che venne messo a guidare questa scuola fu un dirigente che si scoprì dopo era stato coinvolto nelle torture ai brigatisti nel 1981 durante le indagini Dozier. Insomma, forse Pecoraro poi difende gli agenti anche perché deve difendere le gerarchie che questi agenti forma, e questo dà forse anche un'altra spiegazione su tutto. Sì, dice, aggiungendo nell'intervista, non giudichiamo da un fotogramma, quell'agente era lì forse per dare una mano ai suoi colleghi, per la frenesia, la frustrazione di chi si sente improvvisamente bersaglio alla mercé di chi, i manifestanti, è chiamato a tutelare, arriva a compiere quel gesto. Ma ripeto, Marco, non è che possiamo giudicare una manifestazione, un ordine pubblico su un fotogramma o su un presunto errore di una persona delle forze di polizia. Ma no, questo però, posso aggiungere una cosa brevissima? Oramai anche la polizia conosce benissimo il valore dei media, non dimentichiamo che collabora attivamente alla realizzazione di fiction, a degli uffici stampa. Non si deve oramai più stupire che le manifestazioni vengano riprese da decine, centinaia di persone, anche questo fa parte della società, deve essere calcolato anche questo nella preparazione dei servizi di ordine pubblico. Questo certamente. Allora, ieri il vice ministro Bubbico, qui ai microfoni di Radio 24, Simone Spezia, ha rilanciato l'idea di un percorso, per la verità, un percorso da riprendere, da riallacciare come fili, come nodi, di una questione che è annosa, e cioè non è il caso di mettere delle targhettine o qualcosa che identifichi gli agenti delle forze dell'ordine durante le manifestazioni. Allora, questo è il tema che voglio approfondire a partire da dopo la pubblicità, anche col contributo degli ascoltatori. 800 24 00 24, ci raggiungerà anche Francesco Caruso, che è stato deputato di Fondazione Comunista, no? Uno che è attivista di tanti centri sociali e che certamente non ha mai avuto uno sguardo molto tenero nei confronti delle forze dell'ordine. Tonelli, intanto, mi vuol dare una breve anticipazione prima della pubblicità? Voi siete a favore o contro, come SAPA, questi identificativi degli agenti? Noi siamo contrarissimi, e poi le spiego. Però mi deve consentire una cosa, sono state dette dalla persona che mi ha preceduto delle cose di una gravità inaudita. Cioè, che cosa? Perché sono innanzitutto calunnie, perché qui parliamo in senso tecnico-giuridico, qui quando si parla di torturatori e di brigatisti, non mi risulta che nessuno dei miei colleghi sia mai stato condannato per aver torturato i brigatisti nell'operazione che ha portato alla liberazione del giornale Lee Dozier. Non ci sono state condanne in questa direzione, quindi queste sono calunnie che devono tornare all'intento. Non solo. Quando, e questa è la dimostrazione palese, il mio predecessore dice che il collega mio non ha saputo fare il suo mestiere, tutti i giorni giornalisti come lui scrivono cose che il giorno dopo sono smentite, allora nessuno sa fare il suo mestiere in questo paese. Vabbè, ma non la metta così, non la prenda così di punta, Tonelli, faccia le sue critiche. Mi scusi. Sì, vabbè, ma se un giornalista, sembriamo che siamo gli aguzzini del mondo. Ma no, ma gli aguzzini del mondo, ma si sta discutendo. Preve, adesso non vorrei entrare in questa polemica personale, però Marco, qua la questione è che ritornino al mittente queste accuse di tortura mai provate da nessuna sentenza, intanto. Ultima preoccupazione. Vabbè, no, comunque la questione è se sbaglia un giornalista, sbaglia e paga, dice. Il problema è che Tonelli, se sbaglia un agente di polizia in quella situazione, ma purtroppo fa un danno più grave, perché è una professione in qualche modo più delicata. Se sbaglia appunto il chirurgo perché è distratto, magari ci rimette la vita una persona. Se sbaglia un giornalista che fa un errore, si può rettificare, si può chiedere scusa, però insomma ci sono anche delle delicatezze delle professioni. Ma comunque guardi, non c'è nessun aguzzino, non vogliamo fare nessun processo, si discute come si discute sui giornali da giorni, con interviste su una situazione certamente delicata. 24 mattino. Siamo qui, rientrate in diretta alle 8:36 minuti, siamo con Gianni Tonelli, presidente del SAP, il sindacato autonomo di polizia, e Marco Preve, giornalista di Repubblica, autore del libro Il partito della polizia. Allora, intanto gli ascoltatori ascoltatori, se sono rapidi vorrei sentire loro. Gianfranco da Trieste, buongiorno Gianfranco, che dici? Ah, buongiorno, buongiorno Milan. Intanto una piccolissima premessa. Devono proibirti di fare le ferie, perché noi non possiamo stare una settimana senza di te. Va bene, porterò avanti molto blandamente questa sua richiesta. Dica Gianfranco. Parliamo argomento. Dunque, scusa, io sono ignorantissimo, sì. Ma non esistono delle leggi che proibiscono in queste manifestazioni di andare con caschi, maschere, sì, volto coperto, certo. Cioè, una legge... Ma perché non perdiamo il vizio di fare le leggi, di non applicarle? Lo so, ma sa, in teoria... ma muoviamoci, perché si può... Gianfranco, ma bisogna andare lì, in strada quando compaiono i caschi foulard a prelevarle le persone, sa, e lì nel momento in cui compaiono c'è il rischio che la situazione sia già degenerata. Comunque lei dice applicare la legge che esiste di andare in una manifestazione pubblica non identificabile. Grazie Gianfranco. Andrea Milano da Jacopo, buongiorno. Buongiorno Milano. Prima di tutto sono d'accordo con l'ascoltatore che ha appena parlato. Vabbè, ma non ce la farete, settimana prossima sono in ferie, su Jacopo, se ne faccio una ragione. Ci beviamo un aperitivo a Milano, tanto sto qua, dai, va bene. Volentieri. E in secondo luogo direi, oltre che a far applicare la legge, perché giornali e polizia non vanno ad indagare oltre, nel senso, chi sono i mandanti di questi ragazzi che arrivano con manganelli? Perché è un chiaro segno di sabotaggio di una manifestazione, sì, che vorrebbe fare una protesta pacifica, sì, e che sarebbe molto più efficace di una protesta violenta. No, questo è vero, insomma, lei dice si sanno già chi sono in realtà, credo Tonelli, lei ci ha già detto, in realtà si sanno chi sono, ma perché non si riescono a isolare queste persone che si infiltrano all'interno di manifestazioni che possono essere... È impossibile, queste persone godono della totale immunità e impunità. Possono tranquillamente scorazzare, perché giustamente vi è la libertà di circolazione, non sono previsti strumenti giuridici e queste persone possono danneggiare, fare tutto quello che vogliono, tanto non verranno mai chiamati, perché i procedimenti, io vengo da Bologna, vi sono persone che sono state denunciate oltre 70 volte per fatti concernenti l'ordine pubblico. Eppure non verranno mai chiamati a rispondere delle loro responsabilità, perché i procedimenti vanno tutti. Vediamo, faccio questa domanda a Marco Preve. No, non è chiaro, faccio questa domanda. Adesso ce la dice. Faccio questa domanda a Marco Preve. Marco Preve, è anche questo un problema? Oltre al partito della polizia che tu denunci, c'è anche troppa, ci sono delle normative troppo lasche che non consentono di prelevare e prendere persone che magari hanno 70 denunce, ci dice Tonelli, non vorrei banalizzare, però devo dire che l'Italia è il paese dove riuscire a fare scontare la pena a qualcuno che è stato condannato è piuttosto difficile, e devo dire che in questi giorni i giornali sono pieni di una certa persona che avrebbe dovuto scontare la sua pena. Detto ciò, questo è vero in parte, è anche vero che arrivano poi a volte dei cumuli alla fine, è anche difficile identificare queste persone, qui dovevo parlare poi di un lavoro investigativo. Ricordo solo banalmente che per il G8 di Genova sono state condannate delle persone a 14 anni di carcere, dico 14, ci sono degli omicidi che hanno delle condanne sicuramente minori, per devastazione e saccheggio senza che avessero ferito delle persone. Insomma, lo Stato quando vuole magari arriva tardi, poi ognuno ha una sensibilità particolare su questi temi. La sensazione mi sembra che, come al solito, in queste situazioni anche un po' confuse si vada poi a colpire, dove si colpisce si sbaglia, cioè magari si sbaglia nel senso che non si riesce a punire coloro che sono i professionisti dello sfascio nelle manifestazioni, e magari ci va di mezzo una persona che passava di lì. Io intanto voglio salutare insieme a Marco Preve, Gianni Tonelli, Francesco Caruso, buongiorno Caruso, buongiorno. Lo ricordiamo tutti come deputato di Fondazione Comunista dal 2006-2008, ma tanto attivista dei centri sociali. Che fa oggi Caruso? Lei? Io lavoro, sono ricercatore all'Università della Calabria. Ricercatore all'Università della Calabria. Senta Caruso, si sarà fatto un'idea di qua l'ascolta Marco Preve, giornalista di Repubblica, e Gianni Tonelli che è presidente del SAPI, il sindacato autonomo di polizia. Si sarà fatto un'idea lei di quello che è successo in questi giorni? Oggi i giornali, alcuni giornali dicono stanno tornando le, come dire, la voglia di anche per la crisi, per la situazione, di usare più, un po' più di violenza rispetto a prima nelle manifestazioni di piazza. Lei che idea si è fatto di quello che è successo? Credo che la recrudescenza della crisi economica porti inevitabilmente l'innalzamento del livello del conflitto sociale e la mancanza di forti organizzazioni di massa e la dispersione in forme diciamo molto spontanee di questa rabbia sociale, appunto porta forme anche diciamo di ribellismo primitivo, e la storia, sono 300 anni che funziona così. Gli storiografi hanno ricostruito, penso al lavoro della scuola britannica dal 1700, un rapporto di inversamente proporzionale tra la crescita economica e la pace sociale. Sa però che succede, Caruso, lei di manifestazioni ne ha fatte tante, la gente anche oggi scrive molti giornali, le persone che vengono beccate, alcune anche ieri sono state rilasciate, non si sa, qua Tonelli del SAP ci dice che ci sono persone che hanno 70 denunce sul groppone e non vanno mai in carcere per questioni legate anche io tempo. Ne ho avute per un periodo che ero finito sotto l'occhio del ciclone degli apparati di polizia, mi si accumulavano denunce, bastava che andavo fuori i cancelli della Fiat a Melfi e mi denunciavano per blocco per blocco stradale. Fortunatamente c'è la magistratura che fa un minimo di discernita e alla fine erano tutte campate in aria. Sì, dalla parte delle forze dell'ordine a volte c'è questo tentativo appunto di accumulare sulle spalle degli attivisti più in vista una serie di denunce anche un po' fantasiose. Io vi ricordo che siamo finiti sotto processo per 12 anni, accuse gravissime ci avevano dato, associazione sovversiva finalizzata al sovvertimento dell'ordine economico mondiale, rischiavamo 20 anni di carcere. Ma perché cosa? Un magistrato, i rapporti della Digos, sulla base dei rapporti della Digos, un magistrato era arrivato a coprire questa cellula sovversiva che da Genova in poi aveva tentato di attentare all'equilibrio economico mondiale. Ma le immagini di sabato le ha viste lei? Il prefetto Pecoraro oggi a Roma, oggi il prefetto Pecoraro dice: ma che cretino, come l'ha definito il capo della polizia, al limite quella persona, quell'artificiere ha un atteggiamento apparentemente inspiegabile, ma non è un cretino, io sto dalla parte degli agenti di polizia che vengono insultati, vessati. Questa mi sembra la reazione più tradizionale, diciamo, quello che coprono anche e difendono anche l'indifendibile, anche questo rientra in una tradizione, basta leggere le relazioni delle prefetture di fronte alle stragi che facevano dei contadini a Melissa, e si difende l'improbabile e l'impossibile, e a volte appunto c'è uno slancio di onestà, per cui appunto credo che il cretino diciamo rientri in questo, malgrado io ne vedo nella definizione di cretino un tentativo anche di in un certo senso banalizzare come dire uno fuori dal controllo, ma solo uno, ma non solo, ma anche cretino è come se diciamo l'azione era del tutto sconclusionata. Purtroppo appunto adesso ne escono altre di immagini che ci dimostrano come c'è questa gestione della piazza in Italia, la gestione dell'ordine pubblico in Italia ricorda molto quello degli anni 50 di Scelba. Io ho girato molto l'Europa, potrei fare un'analisi comparativa al G8. Ma vede che queste sono accuse dure. Tonelli ha sentito, insomma, e sente Caruso. Sì, mi fa molto sorridere la banalizzazione della situazione che viene fatta con riferimento alle varie denunce e il resto. Le persone a quale facevo riferimento, che sono state denunciate oltre 70 volte, sono in maniera inequivocabile responsabili di quanto io prima affermavo, ma noi vogliamo andare più avanti sotto questo profilo, perché vi è un'esigenza anche di verità in questo paese, perché sennò si continua a rimestare sempre nel torbido. Noi abbiamo chiesto alcune cose in maniera molto chiara, perché possono servire, perché l'approccio deve essere assolutamente onesto. Vi è un'esigenza di chiarezza? Benissimo. Vi è un'esigenza però anche di efficacia, perché questo sono queste manifestazioni, questo modo di manifestare, e prendo le distanze cercando di spiegare una cosa. Le persone che vanno in piazza e hanno il diritto di manifestare, vanno a manifestare, sono sotto la tutela delle forze di polizia. Sì, il certo, problema è certo. Sono coloro che si inseriscono per strumentalizzare, che sono dei professionisti del disordine pubblico, e che sono questi i veri responsabili. Si sanno perfettamente, ma non vi sono regole. In questo senso, siamo contro i numeri identificativi, certamente, perché mettono semplicemente a rischio le nostre famiglie, perché identificando il singolo arrivano. Noi vogliamo andare più in là, abbiamo detto, vogliamo caschi nei quali siano inserite delle videocamere, giustizia e verità, soprattutto verità. Ah, quindi lei questo dice, questo sì, le videocamere nei caschi, le videocamere, e il magistrato a fianco a noi, che possa verificare e controllare anche noi e tutti, che sia una garanzia per tutti. Però se lo vede il magistrato in piazza negli scontri, certo, però... per quale motivo ci sta il questore e non ci può stare il magistrato? No, ma è chiaro. Non è la stessa figura. Comunque andiamo in pubblicità e poi riprendiamo da qui. State con noi. Allora, Gianni Tonelli del SAP dice no agli identificativi, sì alle camere, per esempio sui caschi. Ecco, Marco Preve, potrebbe essere questa una soluzione? E poi ti chiedo anche il partito della polizia, cosa sarebbe, quale sarebbe, cos'è questo fantomatico partito della polizia che è il titolo del tuo libro? Per venire alle soluzioni, quella sì, la telecamera, i numeri, può andare tutto bene, ma non è certo risolutivo, come voglio dire, mi sembra pura demagogia il magistrato accanto ai poliziotti. Allora che cosa avremo poi? Gli ispettori a giudicare i condannati qua nelle aule di giustizia? Questo mi sembra che attenga un pochettino poi all'aspetto forse chiaramente del sindacalista. Quanto poi riguarda il partito della polizia, quello che racconto è soltanto un modo di fare, cioè il gruppo di vertice della polizia, lo analizzo negli ultimi 20 anni, che si è mosso attraverso quelle che sono relazioni personali, ma anche di gruppi, amicizie con la politica, con l'imprenditoria, con le istituzioni, per il mantenimento di quello che è un potere importantissimo, che è centrale, ma non dimentichiamo che la polizia è piramidale, quindi dal centro poi si decidono le questure periferiche, comportandosi appunto come un partito, con tutta una serie di relazioni, muovendosi proprio come un partito, insomma, sì. Questo detto in maniera molto breve. Sì, relazioni che rischiano anche di essere, almeno così racconti nel libro, in qualche caso un tentativo di insabbiare alcuni scandali, ma ovviamente questo poi sono approfonditi nel libro. Vorrei, da Tonelli e Caruso, voi vorreste gli identificativi di polizia? Guardi che io però, Caruso, la questione che pone Tonelli la capisco, cioè lei si immagina in un paese nostro in cui ci sono anche siti di antagonisti che dicono ecco questo, cioè si immagina le famiglie di questi poliziotti identificate che poi si ritrovano sotto casa allora, qualche disgraziato esistono questi siti, esistono in tutta Europa, così come in tutta Europa e direi anche in tutto il mondo esistono questi codici identificativi. Ormai è rimasto il Libano, il Burkina Faso e l'Italia, che non hanno questa norma di civiltà, che ha una funzione inibitoria nei confronti di quelle forze dell'ordine cretine, come direbbe qualcuno, che camminano sopra le persone. Il codice è un codice alfanumerico, il cui possesso è solo nelle mani dei magistrati. Non è che c'è scritto il nome, il cognome e la via dietro il carico. In Italia, da questo in codice, Italia, lei sa, in Italia. Io sono stato anche in Germania. No, ma dico il sistema di controllo in Italia uscirebbe in 5 minuti su tutti i giornali. Anche in Germania esiste questo sito che si chiama Antifa Action, che denuncia gli abusi della polizia e che individua appunto AF46... e ci fa una campagna intorno a questo AF46, ma non è che la AF46 può pretendere l'impunità, perché altrimenti poi qualcuno gli va a dire no, ma neanche la gogna, però voglio dire, se sbaglia verrà punito dalla magistratura, cioè se poi a casa di questo AF46 si presenta qualcuno e gliela fa pagare, cioè lo considera una cosa da stato civile, cioè si fa una legge in cui si dice a queste persone non si può pretendere nessun procedimento giudiziario, altrimenti poi si viene a sapere e qualcuno poi gli va a dare fastidio. Allora si fa questa legge in questo modo e gli garantiamo l'impunità, ma la si scriva chiaro, nero su bianco, non è che si mette in mezzo questa scusa che a me sembra banale, perché il codice identificativo è solo nelle mani di un magistrato, e se non gli diamo questo in mano a un magistrato, il povero magistrato che si dovrà trovare sul fascicolo con l'inchiesta del 12 aprile, come fa a identificarlo? Mentre trova i cretini appunto che vanno là con le bombe a fare il capodanno in piazza, e diventa molto semplice, al poliziotto non ci arriveranno mai, ci è arrivato il cretino. Questa è un'obiezione interessante, Tonelli. Se poi scatta quella protezione corporativa, che guardi Tonelli, non è nella polizia, è in tutte le corporazioni, se vuole anche quella dei giornalisti. No. Cioè, quando... Io dico più trasparente della nostra, quello che ha detto prima Caruso dimostra la disonestà intellettuale della questione, per un motivo, perché anche dici mano ai magistrati, ma anche l'intercettazione, anche la segretezza della corrispondenza, quindi delle intercettazioni, è in mano ai magistrati. Sì, però Tonelli, mi scusi, no certo, però Tonelli, facciamo un caso di sabato, se non ci fosse stata quella telecamera a immortalare quell'azione, lei crede che quella ragazza si fosse alzata a dire sono stata calpestata da un agente? Qualcuno le avrebbe creduto? Qualcuno le avrebbe creduto? No, infatti, per quello che dico, vogliamo la telecamera su tutti i caschi e le immagini sono automaticamente videofono registrate, vuol dire dalla centrale operativa. Come è stato a Terni? Perché se non ci fosse stata quella telecamera a dire che il sindaco di Terni si era preso un'ombrellata in testa, saremmo stati noi gli augustini che al soldo del padrone delle ferriere mazzolavamo i manifestanti che... Comunque, lei dice no, anche se fossero solo in mano ai magistrati i codici identificativi. No, ma il problema è uno, anche perché non possono andare in mano ai magistrati, perché cosa fa il magistrato tutti i giorni, ogni domenica, soltanto per consideri questi, che ogni domenica vi sono 10.000 persone utilizzate solo per gli stadi, operatori di polizia. Sì. Il magistrato si mette lì con un registro di 10.000 nomi, ma e ogni giorno li gestisce. Mi scusi, perché risponde a questo, perché in altri paesi invece funziona? Ma è una cosa superata dalla tecnologia. Per quale motivo ci si oppone all'operazione verità e giustizia come la nostra? Viene immortalato tutto, ma viene immortalato l'eventuale abuso dell'operatore, ammesso che, voglio dire, lo commetta, ma vengono soprattutto immortalate le responsabilità. Andiamo su questo, Caruso, effettivamente Tonelli dice andiamo anche oltre, mettiamo le telecamere su... Appunto, saltiamo nell'ipertecnologia, questo diciamo non ci vedo niente di male, peccato che appunto la banalità di tenere un registro da parte del capo squadra della Celere, e che a richiesta della polizia, quando il magistrato si troverà quella immagine, chiama il capo servizio, il capo responsabile della piazza, e gli dice scusa, mi dici gentilmente chi è quell'F4/5? Non vedo quale sia il problema di un elemento così a costo zero, piuttosto che milioni di euro per milioni di caschi da cui mettere le telecamere. Risparmieremmo tutti, anche il cretino che scende in piazza, ed è cretino quello, il poliziotto, perché non è come tutti gli altri la bardatura che gli dà l'anonimato. Io credo che forse anche per quello sia stato un po' cretino il poliziotto che ci ha camminato sopra la ragazza, perché se era un celerino con il casco e l'uniforme classica, era nell'anonimato più totale. Vi assicuro che difficilmente l'avremmo trovato. E invece così, dopo e così in è stato identificato. Ad autodenunciarsi. Vabbè, io mi devo fermare qui perché il tempo è scaduto. Intanto vi ringrazio Gianni Tonelli, presidente del Sindacato Autonomo di Polizia, Francesco Caruso, ex deputato, oggi ricercatore all'Università della Calabria, Marco Preve, di cui voglio ricordare ancora il libro, se lo potete trovare in libreria, edito da Chiare Lettere, Il Partito della Polizia. Marco Preve ha scritto questo libro, giornalista di Repubblica. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci ritroviamo domattina alle 6.30, puntuali.